Storie italiane. L'incantesimo del gigante. C'era una volta una povera ragazza di nome Isabella che portava sempre al pascolo le mucche del suo padrone. Isabella non aveva amici o familiari, ma era esperta nel suo lavoro ed era molto, molto curiosa. All'improvviso sentì un forte gemito, simile a quello di un umano. Cos'è questo suono? Camminò lentamente ed esitante nella direzione del rumore. Oh, cielo! Un leone! Isabel si spaventò perché non aveva mai visto un leone così da vicino. Ma presto si rese conto che la gamba del leone era incastrata tra le radici dell'albero. Le dispiaceva per lui e quindi lentamente e un po' spaventata avanzò. Lei gli si avvicinò. Lentamente mosse le radici, liberando la gamba del leone. Il leone libero ora ruggiva forte. Isabel si spaventò dal ruggito. Per favore, non toccarmi! Il leone si guardò alla zampa e si diresse verso Isabel e le leccò la mano con la sua lunga lingua ruvida. Isabel rimase ferma per un momento. E poi, raccogliendo abbastanza coraggio, posò una mano sulla testa del leone, accarezzandolo. Il leone rimase immobile. Un improvviso senso di gioia le riempì il cuore e sorrise allegramente. Ma improvvisamente il leone si voltò verso il cielo. Il sole stava tramontando, guardò Isabel e poi si voltò e fuggì. «Ehi, aspetta! Dove vai?» Isabel fu sorpresa nel vedere il suo nuovo amico scappare e decise di inseguirlo. «Ehi, vieni qua!» Mentre correva dietro di lui, entrò nella foresta e presto il leone sparì. La foresta era fitta e piena di alberi che avevano foglie grandi e verdi. «Dove è andato?» Continuò a camminare e a chiamare il leone. «Amico! Amico leone! Dove sei?» Ma il leone non si vedeva da nessuna parte. All'improvviso vide un bel giovanotto che scendeva lungo il sentiero scomparire dietro una grande roccia. «Chi è quello?» Isabel corse e guardò dietro le rocce, ma non c'era nessuno. «Come può essere? L'ho visto con i miei occhi!» Rifletté e poi decise di spostare le rocce. «Ma come faccio a spostare le rocce?» Mentre pensava, si appoggiò a un albero vicino e magicamente le rocce si spostarono di lato. Vide che c'era un passaggio per entrare. «Questo sembra essere un posto magico!» Curiosa, entrò dentro e quando uscì dall'altra parte vide una casa così bella che la lasciò stupita. «Wow! Che casa meravigliosa! Ma chi ci abita?» Entrò nella casa. All'interno, la casa era più bella di quanto non fosse all'esterno. Pareti decorate, tende morbide e luminose e i portacandele più perfetti che avesse mai visto. «Questo è da sogno!» Improvvisamente qualcuno la chiamò da dietro. «Ciao!» Si voltò e fu sorpresa di vedere lo stesso bel giovane che aveva visto nella foresta. «Oh, ciao! Scusa, stavo solo cercando il mio amico. Potrebbe aiutarmi, signor... «Mi chiamo Eugene e mi conosci. Ci siamo già incontrati.» «Io non la penso così.» «Sono il leone che hai aiutato.» «Aspetta, cosa? Tu? Leone?» «So a cosa stai pensando. È una lunga storia.» «Una volta ero il principe di un grande regno e il popolo del regno mi adorava.» Ti adoriamo! ti adoriamo! Un giorno, mentre galoppavo nella foresta, incontrai un gigante addormentato. Il forte rumore del mio cavallo disturbò il gigante addormentato, che divenne furioso. Come osi disturbare il mio sonno? Divorerò quel cavallo! Prima combatti contro di me. Pensi di potermi sconfiggere? So di non essere un codardo. So che non mi arrenderò prima di aver combattuto. Se pensi di far male al mio cavallo, dovrai prima sconfiggermi. Sai cosa? Il mio sonno è completo. Preferirei tornare a dormire piuttosto che combatterti. Ma dato che hai avuto il coraggio di sfidarmi, ti insegnerò una lezione. Cos'è successo? Beh, mi ha lanciato un incantesimo. E da allora prendo la forma di un leone fino al tramonto. E solo allora torno alla mia forma umana. Non vado a casa mia, né vedo i miei genitori da moltissimo tempo, perché temo che vedermi così li devasterebbe. Mi dispiace tanto, Eugene. Non è possibile spezzare questo incantesimo. Sì, l'unico modo è ottenere la ciocca di capelli dalla testa di una regina, tessere un mantello di capelli e darlo al gigante. Bene, andrò da una città all'altra e busserò alle porte dei re e delle regine. E mi assicurerò di portarti una ciocca di capelli di una regina. Perché dovresti farti tutti questi problemi per me? Perché sei l'unico amico che abbia mai avuto in vita mia. E ho sentito che gli amici si aiutano a vicenda. Grazie. Mi chiamo Isabel. Grazie, Isabel. Non ringraziarmi ancora. Dicendo questo, partì per la città. Al mercato iniziò ad urlare chiedendo lavoro come domestica. Chi mi assumerà come cameriera? È molto carina per essere una domestica. È molto pulita e ordinata. Tra la folla di paesani c'era la cameriera in attesa della figlia del re, che udì per caso la nostra Isabella. Vorresti lavorare al palazzo del re? C'è un posto vacante per una coppia. Isabel si rese conto che era l'unica opportunità che aveva di lavorare al palazzo e acconsentì all'istante. Sì, farò qualsiasi lavoro. Allora vieni con me. La fanciulla raccolse i capelli di Isabel e la fece apparire molto carina e intelligente. E tutti l'ammirarono e la lodarono. Ho dei capelli così belli, è molto più carina di quello che ci pensa. È così carina, oh wow! Alla fine questo raggiunse le orecchie della regina, che mandò chiamare Isabella. Altezza, mi avete fatta chiamare? La regina notò quanto belli fossero i capelli di Isabella. Mi piace il modo ordinato in cui ha acconciato i capelli. D'ora in avanti non dovrai più lavorare in cucina. Dovrai pettinarmi e vestirmi tutti i giorni. Isabel non era mai stata così felice. Aveva trovato l'opportunità che stava cercando. Sarà un piacere, Altezza. I capelli della regina erano molto folti e lunghi e brillavano come il sole. Isabel li pettinò e li pettinò ancora, fino a renderli più luminosi che mai. Passarono i giorni e così anche le settimane e la regina si affezionò molto a Isabella. Un giorno Isabel raccolse tutto il suo coraggio e chiese alla regina: Altezza, posso chiedere un favore? Certo che puoi, Isabel. Posso tagliare una delle sue lunghe ciocche? È tutto qui? Isabel, tu certo che puoi! Isabel passò giorni e notti intere a lavorare a maglia il mantello fatto di capelli della regina. Quando finalmente ebbe finito, portò il mantello ad Eugene. È pronto! Ora, dimmi, dove posso trovare questo signor gigante? Sono ansiosa di vedere che aspetto ha un gigante! Sei una persona curiosa, Isabel. Ma fai attenzione a non urlare troppo in giro cosa stai portando, altrimenti si scatenerà e cercherà di farti del male. Non ti preoccupare, Eugene. Quando raggiunse il posto segreto del gigante nella foresta, Isabel chiamò il gigante. Signor gigante, ciao! Chi osa mettere piede nella mia dimora? Oh, re dei giganti! Ho un regalo per te! Un mantello lavorato con le trecce di una regina! Il gigante uscì immediatamente dalla sua caverna e prese il mantello da Isabel. Mi piace questo, grazie! Presumo che tu voglia qualcosa in cambio. Signor gigante, per favore, rompi l'incantesimo che hai lanciato su Eugene. E chi sarebbe questo Eugene? Il leone uscì da dietro un albero. Sarei io. Oh, quello che voleva combattermi. Mi dispiace, ero stato privato del mio sonno. Non intendevo trasformarti in un... un leone. Sei serio? Mi hai trasformato in un leone perché non eri di buon umore? Sarebbe corretto, sì. Non ci posso credere. Ok, ragazzi, non pensiamo più al passato. Signor gigante, potresti rompere l'incantesimo? Sì, posso. In realtà, lui può. Di semplicemente, non voglio più essere un leone per il resto della mia vita. Sei serio? Questo era tutto ciò che dovevo fare? Come ho detto, ero di cattivo umore. Eugene, dillo e basta. Non voglio più essere un leone per il resto della mia vita. Appena lo disse, si trasformò immediatamente nella sua forma umana. Ecco qua, tutto a posto. Sì, a posto. Ok, devo tornare a dormire. Ciao. Ciao, signor gigante. Mentre il gigante tornava nella sua caverna, Isabel si girò verso Eugene e lo abbracciò. Mia cara Isabel, quello che hai fatto per me ha toccato il mio cuore. Nessuno si sarebbe spinto così oltre per salvarmi dall'incantesimo. In cambio, voglio chiederti la tua mano in matrimonio. Ma, Eugene, io sono una donna comune e tu sei un principe. Non importa, sono innamorato di te. Lascia che ti porti a casa da mia madre. Eugene portò Isabel nel palazzo della regina, da cui aveva preso una ciocca di capelli. Rimase sbalordita e gli disse che era lo stesso palazzo da cui aveva ottenuto la ciocca di capelli. Il mantello era fatto dai capelli di mia madre? È meraviglioso! Vieni, andiamo ad incontrarli e a raccontare loro tutto quanto. Il re e la regina furono felicissimi di vedere il principe, il loro figlio perduto da tempo. Il principe presentò loro Isabella e gli raccontò tutto. Espresse anche il desiderio di sposarla. Oh, sarei così felice di averla come mia nuora. Lei è meravigliosa. La regina abbracciò Isabel e presto si tenne un grande matrimonio. Eugene e Isabel si sposarono e vissero una vita grandiosa. Isabel aiutò Eugene a gestire il regno, poiché la sua curiosità l'aiutava a scovare i problemi e aiutare la gente. Non a caso si dice: un amico nel bisogno è un amico ancor di più.